del genitor. L'amarlo, se mia scelta non fu, già mi si rende virtù, dover, necessità. Non t'amo il pari di me, che greco nacque, affezzo nella dura dell'armi, barba la scuola. Certe cuffie.